America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Today Cuba is still governed by the Castros and the Communist Party that came to power half a century ago. Neither the American nor Cuban people are well served by a rigid policy that's rooted in events that took place before most of us were born. Il presidente Barack Obama parlava di Cuba. È stato questo il regalo natalizio che la Casa Bianca ha portato ai cubani, a molti americani, non l'ha portato ai repubblicani che restano infuriati, soprattutto il senatore Marco Rubio. Oggi 26 dicembre, Natale archiviato, ci stiamo proiettando verso la fine dell'anno e dunque vorrei cominciare a esplorare un po' gli scenari che ci attendono per il 2015, per questo nuovo anno in arrivo. Uno scenario riguarda proprio la dimensione internazionale in quello che è, chiamiamolo, l'ex, o che dovrebbe essere l'ex mondo comunista. Cuba diventa un simbolo, la Corea del Nord un altro simbolo, la Russia di Vladimir Putin un simbolo ancora diverso. Ma partiamo da Cuba, da quel che diceva il presidente americano. L'apertura nei confronti di Cuba cambia soprattutto lo scacchiere geopolitico internazionale. Lo cambia dal punto di vista delle relazioni degli Stati Uniti con il Sud America. Abbiamo avuto delle reazioni entusiaste, cito per tutte quella di Dilma Rousseff, presidente del Brasile, che ha apprezzato il coraggio di Obama nel prendere questa iniziativa. Coraggio perché? Beh, perché i repubblicani sono contro di lui. Coraggio perché Obama cerca di giocarsi il tutto per tutto per lasciare dietro di sé comunque una legacy, un'eredità storica importante, e quindi capiamo un pochettino anche come si muoverà forse da qui ai prossimi due anni. Sul piano economico con Cuba non cambierà molto. Ma torno a dire, l'aspetto più importante resta quello politico. Anche alle Nazioni Unite gli equilibri cambieranno. Proprio qualche giorno fa avevo incontrato dei diplomatici che mi dicevano come l'atmosfera improvvisamente è cambiata all'interno di gruppi che si schieravano e che mantenevano ancora la vecchia differenza, il vecchio schieramento tra nord e sud, tra paesi contro l'imperialismo e paesi che subivano l'imperialismo. Ecco, il messaggio che viene dal Sud America e da questi gruppi delle Nazioni Unite e che improvvisamente, quantomeno nei confronti di Cuba e di certe tematiche, l'America non è più considerata così, questo imperialismo vecchio stile. La crisi invece resta dal punto di vista dei rapporti americani con vecchi paesi comunisti o ex comunisti, in particolare con la Corea del Nord e con la Russia. La Russia che ha destabilizzato l'Ucraina, che rivendica dei diritti sull'Ucraina, che protesta per quello che è un accerchiamento, dice Vladimir Putin, che la NATO e l'Occidente stanno facendo nei confronti della Russia, protesta per quelle che sono, sempre secondo Putin, delle ingerenze economiche che hanno destabilizzato i mercati, messo in difficoltà il rublo, protesta per le sanzioni che sono state imposte contro Mosca. Ma la logica, dal punto di vista americano, sempre in cui la Russia si muove, è una logica da guerra fredda, cioè est-ovest, la Russia si deve difendere dall'Occidente. È un po' come se la Germania a un certo punto decidesse che esce dalla NATO e si mette contro l'America e va a rinvangare vecchie acrimonie del passato. Le guerre finiscono, il Giappone è un alleato degli Stati Uniti, tutti fanno parte del G20, la Russia fa parte del G20, si può lavorare insieme, eppure si è creato questo incidente di percorso legato da una parte e dall'altra, indubbiamente, ma legato a vecchie percezioni di guerra fredda. La cosa più, io dico, divertente, forse non è il termine giusto, riguarda la Corea del Nord. Lo sapete, la Corea del Nord, che ha minacciato l'FBI proprio negli ultimi giorni, ha confermato che dietro gli hackers che hanno attaccato la Sony, dietro le minacce di attacchi terroristici nei cinema americani, se avessero proiettato il film The Interview, c'erano hackers della Corea del Nord. C'era la Corea del Nord, c'era il regime di Kim Jong-un. Ecco, guerra fredda che da una parte sembra finire e che dall'altra invece sembra restare. Ho con me ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, che conosce la Russia, conosce l'America. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, buon post Natale. Come hai festeggiato il Natale intanto? Cosa hai mangiato? Qual è stato il menù? Perché dovete sapere che... Ho mangiato troppo, ma è stato un menù abbastanza classico con... siamo una fusion di tradizione settentrionale e tradizione meridionale, perché mi trovavo in Sicilia, quindi abbiamo mangiato i tortellini in brodo e il bollito, ma abbiamo mangiato anche il pesce e la pasta con le sarde. Un po' una combinazione indigesta, devo dire, ma insomma a Natale si fa questo ed altro. A Natale fa questo ed altro, avete notato il tono e la precisione con cui Paolo si esprime, perché Paolo è un grande esperto culinario, lo abbiamo avuto più volte ospite in questa trasmissione per parlare anche di come si mangiano le formiche e gli insetti. Paolo, parliamo della Corea del Nord. Ci sono state polemiche in America. Il New York Times ha detto che la Sony ha fatto male a ritirare il film, l'attore George Clooney ha detto ma qui andiamo a minacciare il diritto di espressione, ha fatto male a togliere questo film. Ecco, qual è la tua reazione a caldo che questo leader coreano minaccia degli attentati nei cinema americani? Ma siamo arrivati alla frutta, che dici? Ma francamente a me questa vicenda della Corea del Nord mi lascia un po' perplesso. E se devo dire anche, mi sembra un po' esagerata la reazione della Sony. È chiaro che il dittatore coreano è un dittatore orribile, tremendo, non c'è neppure alcuna delle grandezze del nonno, grandezze ovviamente negative. È proprio un ragazzino viziato che si è trovato a ereditare un potere enorme in questo paese ormai impoverito, distrutto, ridotto alla fame. Che il regime nordcoreano sia in grado di gestire un network terroristico nei cinema di New York, a me questo lascia un po' perplessi. E in questo senso mi schiero con Clooney, nel senso che è un segnale molto molto negativo e anche di debolezza oggettivamente quello della Sony. Ecco, torniamo all'estremo opposto, l'America che invece apre a Cuba, quindi la distensione è possibile. Come hai reagito, l'abbiamo seguita questa vicenda cubana-americana per anni insieme Paolo, come hai reagito? Se posso dirlo, con una sensazione di sollievo e anche un po' di malcelata soddisfazione, perché in fondo dà ragione un po' all'approccio di Obama. E io non dico che l'apertura a Cuba riscatti la presidenza Obama in politica estera, hanno commesso sicuramente molti errori, ma sicuramente se Barack Obama cercava una legacy, se Barack Obama cercava un successo in politica estera che leghi comunque il suo nome ai libri di storia, l'apertura a Cuba gliel'ha dato, non c'è dubbio, chiude l'ultimo capitolo della Guerra Fredda, chiude una ferita lunga oltre mezzo secolo, ma soprattutto apre una prospettiva e in un certo senso fa un reset, ecco, lì sì, fa un reset nei rapporti con l'America Latina, col Centro America e col Sud America. Quindi in questo senso lui apre agli Stati Uniti, ed è questa la sua vera legacy, una prospettiva molto più rosea, molto più positiva nei rapporti con Sud America. I leader sudamericani sono molto soddisfatti di questa apertura di Obama, a parte il fatto che l'apertura forse metterà nel regime cubano il cuneo che poi lo aprirà anche alla democrazia, questa è la mia convinzione. Ecco Paolo, pensiamo al 2015, guardiamo in avanti. Se Obama ha fatto quello che ha fatto a Cuba, forse non farà granché con la Corea del Nord perché c'è un leader viziato, ma resta il problema con la Russia, un grande paese, un grande leader, Vladimir Putin, controverso, ma sicuramente un leader, un paese che vanno considerati. C'è il problema del rispetto degli accordi di Minsk. Paolo, guardando in avanti, Obama ha detto io le sanzioni le tolgo nel momento in cui gli accordi di Minsk sono rispettati e tutti i paesi occidentali vorrebbero toglierle perché poi si lavora con la Russia, si perdono contratti e non va bene. Putin dice io li sto rispettando. Dov'è la differenza? Dove siamo? Cosa vedi tu nel 2015 per poter riavvicinare l'Occidente e la Russia e chiuderla con questa percezione di guerra fredda? Ma Mario, guarda, non ho la sfera di cristallo. Due proposizioni semplici. Uno, probabilmente l'Occidente dovrebbe fare una riflessione sull'efficacia delle sanzioni, nel senso che fino a questo momento non sono servite a portare Putin su posizioni più ragionevoli. Due, probabilmente chiedendoci che qual è la differenza e dov'è il problema, io credo che bisognerebbe ragionare su un fatto che questo ci dice che probabilmente Putin non controlla fino in fondo i separatisti del Donetsk, perché in questa fase di grave crisi economica non mi pare che Putin abbia alcun interesse a chiudere completamente la porta a un dialogo con l'Occidente, e devo dire che non abbiamo interesse neppure noi, perché io non credo che se per caso dovesse esserci una crisi che coinvolga Putin, chi verrà dopo di lui sarà un cultore delle libertà occidentali. Per cui io mi auguro che il 2015 porti una nuova ragionevolezza nella parte russa e che finalmente ovviamente